Possiamo iniziare in maniera un po' elastica con questa ultima parte delle giornate dedicate all'Associazione Scrittori di Bolzano. Ringrazio voi tutti che siete qui presenti e ringrazio i nostri ospiti. Questa quarta ed ultima parte della kermesse vede come ospiti Elisabetta Balluzzi, che è già qui al tavolo, sarà poi seguita da Franca Valenti, che è già arrivata, da Mattias Graziani e da Giorgio Dobrilla. Quindi avremo da una parte libri di saggistica, quindi storia dell'arte, abbiamo anche medicina, ma poi ci sarà la parte dedicata al thriller, alla narrativa. Il compito di accompagnarci in questa fase è di Italo Ghirigato, che anche lui aderisce appunto all'associazione e ha presentato lui stesso le proprie opere nella giornata di ieri. Per quanto riguarda l'associazione, lascio la parola a Franca Caro, che ringrazio ancora una volta per il lavoro e la collaborazione che ci ha dato in questa, nell'organizzazione di questo evento, che speriamo si ripeta magari anche con una formula un po' più vivace e diversa nel prossimo avvenire, perché abbiamo in mente un paio di cosine, trucchetti per vivacizzare un po' e renderlo più scorrevole nell'arco di più appuntamenti. E quindi lascio la parola a Franca e vi ringrazio ancora. Buonasera a tutti, mi scuso per chi magari ha già sentito questo discorso per tre volte, questa è la quarta, ma vedo delle facce nuove, per cui sono giunta a riprendere brevemente una piccola premessa sull'associazione. Quindi un saluto da parte dell'associazione, in particolare del suo presidente, il professor Mastro Elia. L'associazione nasce circa 3 anni fa per iniziativa di un gruppo di appassionati di lettura di scrittore e di scrittura, coinvolti, inseguiti dall'avvocato Giorgio Pasquali, che ha aggregato questo gruppo di soci fondatori. Attualmente siamo in 85, in questa carrellata della settimana dello scrittore siamo invece in 16, quindi una piccola parte, però un saggio significativo, diciamo, di quello che è la produzione complessiva dell'associazione. Quello che mi preme sottolineare è il fatto che già da 3 anni a questa parte l'associazione appunto ha promosso questa che abbiamo denominato settimana dello scrittore, settimana perché originariamente diciamo si articolava in 4-5 serate, mentre questa edizione, che è la terza, è, diciamo, si estende nell'ambito di 2 giornate lavorative. In futuro sicuramente riprenderemo l'articolazione serale, perché sicuramente è più interessante. Ma ecco, l'importante è che in questa settimana, più che dare voce ai singoli, l'importante, l'obiettivo primario per l'associazione è quello di mostrarci al pubblico cittadino come un gruppo, come un'aggregazione di soci, ma simbolicamente parlando, che rappresentino, diciamo, una specie di esecuzione orchestrale dei soci che appunto si presentano in queste 2 giornate. Questo è importante, così come è importante la brochure, che anch'essa riproduce, diciamo, questo che è lo spirito dell'aggregazione dell'associazione. Senza associazione, senza questa aggregazione, anche l'associazione avrebbe sicuramente meno senso. Io ringrazio questa fine giornata, chiaramente tutti gli autori che hanno aderito all'iniziativa, e in particolare 4 moderatori che sono peraltro anche autori, e in particolare oggi il dottor Ghirigato. Grazie. Grazie. Buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti, a tutte quante. Oggi, quando andiamo al bar, ci troviamo sempre una coppettina con delle noccioline. Uno le guarda, ho ordinato l'aperitivo, cosa c'è? Poi però se ne prende una, ah però poi un'altra, poi un'altra, poi sente che sono salate e allora ordina un altro aperitivo. Beh, questa sensazione l'ho avuta ieri quando ho chiesto a Elisabetta Balduzzi un po' del suo curriculum, della sua formazione, come è arrivata a scrivere questa opera anche insomma corposa eccetera, nel senso che proprio ha snocciolato tutta la sua esperienza formativa e insomma veramente mi veniva voglia sempre di più di mangiarne di più, di sapere di più, di incuriosirmi di più. E dopo ho detto no, in fondo domani ho solo 2 minuti di tempo per presentarla, per cui mi fermo qua insomma. Però davvero sono rimasto abbastanza suggestionato dalla formazione di Elisabetta Balduzzi, perché tutto è cominciato in una chiesetta, no? Dove ho visto un dipinto di questo autore, Ambrosius Gander, e poi guarda caso te lo sei trovato un po' in giro dappertutto. E quindi hai pensato, magari anche guardando le immagini, ma questo non è lui, non può essere sempre lui. Come se io che mi chiamo Italo, avessi scritto alla fine Italo Calvino in fondo ai miei. Così tutti quanti lo leggono, no? Un po' forse ha fatto anche a prossimo, non lo so. Comunque, Elisabetta Balduzzi, poi, per capire la sua formazione, io ho letto quello che c'è scritto nella nostra brochure di Associazione degli Scrittori: insegnante, laureata alla Cattolica in storia dell'arte, ha svolto un dottorato di ricerca in storia dell'arte medievale, ha partecipato a corsi di alta formazione. E mi sono chiesto che cosa sono questi corsi di alta formazione, e lei mi ha risposto: seminari internazionali di museologia. Museologia. Oh, dove? A Badia Polesine? A Legnago? No, a Parigi, al Louvre. E poi è andata a Utrecht. A cosa fare? A studiare i palazzi storici, i palazzi reali, i palazzi dei nobili, insomma. E poi altro. Finalmente mi ha parlato di una mostra di De Pero che ha fatto in Trentino. Allora ho respirato un po', ho sentito insomma che poteva essere una nostra compaesana e si è un po' ridimensionata. Elisabetta Balduzzi veramente ha una formazione eccellente alle sue spalle e immagino davvero che il suo libro sia preziosissimo. La parola a lei. Grazie. Io ho preparato una presentazione PowerPoint con le immagini, perché penso che parlare di storia dell'arte senza vedere le immagini sia un po' inutile, per cui preferirei appunto farvi vedere esattamente quello che ho scoperto su questo pittore, che si chiama appunto Ambrosius Gander. La monografia che presento è una monografia che è stata scritta in lingua tedesca. Si intitola Ambrosius Gander, ein Spät Mittelalter Maler in Südtirol. Non è stata tradotta in italiano, e probabilmente in futuro verrà tradotta, ma al momento ancora non è in previsione, anche perché sono 400 pagine di libro, quindi il lavoro sarebbe notevole. Il libro è stato pubblicato con Weger nel 2017 e appunto, come vedete qui, è un libro in formato rilegato. Allora, partirei dicendo chi è Ambrosius Gander. Il pittore è nato, non si sa bene quando, non si sa bene dove, questo è il punto di partenza che io avevo, e ha fatto centinaia e centinaia di opere. Sono partita con la mia ricerca con un pittore che era noto a partire da una chiesa, questa che vedete è la chiesa di San Giacomo in Castellaz a Termeno, e la prima testimonianza del pittore è del 1909, quando Karl Hatz ha trovato gli affreschi, scopre gli affreschi, parla di questo pittore che viene messo in relazione poi con il famoso Giovanni da Brunico. E questo viene fatto da Maddalena dell'Antonio. Maddalena dell'Antonio era una studiosa di storia dell'arte che ha studiato Ambrosius Gander in relazione proprio a Giovanni da Brunico. E quello che sappiamo è che Ambrosius Gander ha firmato e datato questi affreschi, quelli di Termeno, 1441. Se vedete in alto a sinistra c'è una targa in cui lui proprio si firma Familiaris in operibus del maestro Giovanni da Brunico. Come dicevo, nel 1928 Maddalena dell'Antonio dedica la sua tesi di laurea agli affreschi della quarta arcata del chiostro del Duomo di Bressanone, che attribuisce a questa controversa figura del maestro Giovanni da Brunico, considerato il capostipite della scuola prusserese. La storica dell'arte rinviene grande somiglianza fra gli affreschi della quarta arcata di Bressanone e la volta di San Giacomo in Castellazzo, e cita in questo contesto Ambrosius Gander appunto in qualità di allievo di Giovanni da Brunico. L'importanza della scuola di Brunico è caratterizzata appunto da questa declinazione di un linguaggio cortese all'interno del gotico internazionale, nell'ambito di queste leggende di santi, e da una tecnica pittorica che è basata su pennellate leggere, colori pastello, che rendono gli affreschi molto simili a preziose miniature, potete vedere. Gli storici dell'arte hanno individuato quali esponenti della scuola prusserese Giovanni da Brunico e i due fratelli Erasmo e Cristoforo da Brunico. Erasmo è tra l'altro documentato nel 1398. E Ambrosius Gander è uno dei membri di questa scuola prusserese e anche tutti i pittori che hanno affrescato l'ala nord del Duomo di Bressanone, che però non sono conosciuti, non sappiamo il nome di nessuno di questi pittori. Nel corso del tempo, come dicevo, sono stati dedicati ad Ambrosius pochi accenni in pubblicazioni di carattere generale oppure, come appunto dicevo, in correlazione sempre con suo maestro Giovanni da Brunico. Mai opere monografiche, e questa è la prima opera monografica che viene fatta sul pittore. Il motivo principale dell'assenza di studi approfonditi su Gander risiede nella generale mancanza di studi critici su tutti i vari rappresentanti della scuola prusserese, in particolare negli ultimi 50 anni, con l'eccezione di Giovanni da Brunico. L'ultima opera su Giovanni da Brunico è degli anni 80. E gli storici dell'arte hanno inoltre formulato numerose teorie sul luogo e la data di nascita di Ambrosius, teorie non basate su basi documentali, e anche il catalogo delle opere, come dicevo, si è nel corso del tempo ampliato a dismisura sulla base di attribuzioni semplicemente stilistiche. Riguardo all'identità del pittore, esistevano delle conoscenze pregresse ed erano state formulate appunto delle teorie non fondate su basi documentali. Era noto che un pittore di nome Ambrosius Gander avesse dipinto gli affreschi della navata gotica della chiesa di San Giacomo in Castellazzo a Termeno, da lui firmati e datati 1441, e che un pittore di nome Ambrosius Gander fosse vissuto a Merano fra il 1443 e il 1486. Non era però stato possibile riscontrare documentalmente la sua data di morte. Si era supposto inoltre che provenisse dal Ganderhof nella Val di Giovo, e questo è perché è presso Vipiteno e il maestro Giovanni da Brunico pare abbia fatto la chiesa dell'ospedale, la Spitalskirche, che c'è appunto a Vipiteno. Gli storici dell'arte hanno addirittura pensato che esistessero due Ambrosius Gander omonimi, padre e figlio, che avevano fatto numerose opere. In questa maniera gli hanno attribuito opere per circa un centinaio di anni. Al di fuori delle pitture di San Giacomo in Castellazzo, gli storici hanno attribuito nel corso del tempo ad Ambrosius numerose opere d'affresco, eterogenee per stato di conservazione tecnica pittorica, nella maggior parte dei casi attribuibili al suo medesimo ambito pittorico, ma non direttamente autografe. Qui potete avere un esempio di tutte le opere che erano state attribuite ad Ambrosius Gander, non le ho messe neanche tutte, è solo un esempio. Sulla base di approfonditi studi storici e onomastici è stato possibile stabilire che Ambrosius Gander fosse originario di Merano o dintorni, e si capisce perciò meglio per quale motivo il pittore abbia poi eletto a partire dal 1443 Merano quale città di residenza, in cui visse fino alla morte nel 1485. I numerosi documenti rinvenuti nell'archivio storico di Merano e nel fondo Karl Möser della biblioteca del Museo Ferdinandeo di Innsbruck mi hanno permesso di individuare addirittura i quartieri in cui il pittore aveva abitato e la data esatta della morte, che avvenne appunto nel 1485, nonché di disegnare l'albero genealogico della sua famiglia. La sua data di nascita non è purtroppo documentata e per questo motivo ho condotto un'analisi comparativa dell'età di accesso alle botteghe pittoriche nel XIV e XV secolo in ambito tedesco ed italiano, in modo tale da poterla collocare in un periodo temporalmente circoscritto. Grazie all'iscrizione dedicatoria al maestro, la decorazione ad affresco della navata gotica della chiesa di San Giacomo in Castellaz a Termeno può essere considerata la sua prima opera eseguita in completa autonomia e portata a compimento nel 1441, quando Gander aveva indicativamente tra i 18 e i 24 anni. La sua data di nascita può essere dunque collocata fra il 1417 e il 1423 e il suo ingresso nella bottega di Giovanni da Brunico fra il 1429 e il 1435, all'età di 12 anni. Lui visse a partire dal 1443 fino alla morte avvenuta nel 1485 a Merano. Sulla base degli studi da me condotti, sono state ritracciate opere di Ambrosius Gander a Termeno, Novacella e Goudon, ma non sono state individuate opere di Ambrosius a Merano o nei dintorni. Bisogna però tenere presente che ad oggi sono state portate alla luce solo pochissime pitture murali nel Meranese e soprattutto in Val Venosta, quindi potremo ancora trovare qualcosa di suo. E mi auguro che in futuro questo avvenga, vengano fatti dei restauri e si scoprano ulteriori opere. Una scoperta l'hai fatta tu stessa? Sì, adesso ci arrivo, sì. L'unica opera firmata del pittore si trova, come detto, nella chiesa di San Giacomo in Castellaz e la chiesa compare per la prima volta nei documenti nel 1214. I preziosi affreschi romanici risalgono al 1220, mentre gli affreschi gotici della navata principale sono stati eseguiti nel corso del XIV secolo. La navata gotica è caratterizzata dalla consueta volta a crociera ed è collocata a sud della navata principale ed è quindi qui che possiamo ammirare gli affreschi di Ambrosius Gander. Ho fatto vedere quelli romanici, questi appunto sono quelli di Ambrosius Gander. Lo scoprimento degli affreschi della volta avvenne nel corso del XIX secolo, mentre le altre pitture murali della navata gotica vennero portate alla luce durante i restauri avvenuti fra il 1970 e il 73, sotto Niccolò Rasmo. Importanti scoperte sono state fatte nei tre seguenti ambiti: nell'identificazione della committenza degli affreschi, individuabile in un membro della nota famiglia nobile locale dei Paerlueg, nella corretta ricostruzione delle rappresentazioni iconografiche e nell'analisi stilistica. La precisa analisi stilistica degli affreschi ha permesso di identificare le caratteristiche pittoriche di Ambrosius Gander, che hanno consentito sia di distinguere chiaramente le sue opere da quelle degli altri rappresentanti della scuola pusterese, sia di formulare l'attribuzione di ulteriori opere al pittore. Gander dimostra una predilezione per ampie e complesse decorazioni fitomorfe e geometriche e utilizza nei propri affreschi mascheroni e figure nascoste, come quella che potete vedere in alto a sinistra, una figura nascosta che sono riuscita a individuare negli affreschi. Le fisionomie delle sue figure sono generalmente realistiche e i visi espressivi. La plasticità dei corpi è accentuata da passaggi cromatici chiaroscurali graduali che dimostrano una grande abilità nell'utilizzo delle ombreggiature. Nei visi meglio conservati è tuttora possibile distinguere con chiarezza addirittura le rughe dipinte attraverso un sapiente uso del chiaroscuro. Le figure femminili sono poi caratterizzate da un movimento elegante e sinuoso e da gesti aggraziati e sfoggiano spesso ricchi abiti e pettinature alla moda. I lineamenti tipici delle figure di Gander sono molto naturalistici, con sopracciglia fine, nasini all'insù, occhi piccoli e leggermente a mandorla, contraddistinti da palpebre rotonde e bocche piccole, carnose e a forma di cuore. Non mancano però nelle sue opere anche dettagli espressionistici o popolareschi, utilizzati in particolare per far risaltare le figure negative. A Terrino si possono inoltre rilevare nell'opera del pittore ancora alcune incertezze a livello compositivo che non saranno più riscontrabili a Goudon, quindi nelle opere successive, ovvero sia errori prospettici nella resa delle architetture, nonostante comunque ci sia una costante ricerca del punto di fuga, e un'incertezza nel disegno delle mani e soprattutto dei piedi, mentre le figure sono generalmente proporzionate. Le difficoltà nella resa dei piedi avvicinano chiaramente Gander alle pitture della quarta arcata del Duomo di Bressanone, quelle che ho mostrato prima. Al pittore possono essere attribuite stilisticamente con sicurezza tre ulteriori opere, ossia l'ampliamento della cappella Coburg nella chiesa di San Martino a Goudon e due tondi nell'ottava arcata del chiostro dell'abbazia di Novacella, le chiavi di volta affrescate nella chiesa di Santa Margherita a Novacella. Le ultime due che ho citato sono nuove attribuzioni, quindi i due tondi dell'ottava arcata e le chiavi di volta nella chiesa di Santa Margherita. La cappella di Santa Maria, chiamata comunemente Cappella Coburg, è annessa alla chiesa di San Martino a Goudon, un paese nei pressi di Chiusa. L'edificio, costruito con funzione di cappella mortuaria dalla famiglia Coburg, un'antica casata nobiliare originaria dell'Oktoberhof ad Appiano, fu edificato in due fasi successive. La parte più antica, posta ad ovest e caratterizzata da una volta a botte ogivale durante il XIV secolo, mentre la parte nuova, posta ad est, e caratterizzata da una volta a crociera ogivale durante il primo decennio del XV secolo. Gli affreschi della cappella Coburg sono stati scoperti nel 1971 sempre da Niccolò Rasmo. Nel 1972 Niccolò Rasmo attribuì, sempre lui, e tutti gli affreschi di Gander sono stati attribuiti e è stato studiato sempre da Rasmo. Quindi nel 1972 Niccolò Rasmo attribuì per la prima volta le pitture della cappella Coburg ad Ambrosius Gander, sostenendo di aver rinvenuto all'interno di un libro di Joseph Resch, Supplementum ad Monumenta Brixinensia, pubblicato nel 1775 e conservato presso la biblioteca del Museo Diocesano di Bressanone, una specifica annotazione del testo scritta a mano. Questo è quello che diceva Rasmo. Secondo lui questa nota a margine riportava la seguente iscrizione: anno domine, millesimo, quadracentesimo, sexagesimo, quinto, completa est hec pictura per manum Ambrosi in vigilia Sancte Marie Magdalene. Questo è quello che Rasmo aveva riportato. Nel corso delle mie ricerche ho trovato presso il Museo Diocesano un unico esemplare del supplementum che conteneva effettivamente moltissime annotazioni manoscritte ad opera di Stefan von Meyerhofen, oltre ad un'appendice riferita a questi affreschi, che non riportava però il nome del pittore. Per questo motivo gli affreschi devono essere collocati fra le opere attribuite a Gander e non possono essere considerati un'opera firmata. Gli affreschi della cappella Coburg possono però essere indubbiamente attribuibili ad Ambrosio, grazie alla presenza in essi di alcuni dettagli tipici dell'opera di Gander. Un esempio è il basamento multicolore a finto bugnato a punta di diamante con motivi geometrici dipinti che decora l'intera navata gotica a Termino e il basamento dell'intradosso dell'arco che conduce dalla cappella alla chiesa a Goudon. Come si può notare chiaramente, in entrambi gli affreschi furono adoperate le medesime mascherine che sono servite per dipingere motivi geometrici e anche la grandezza dei quadrati a punta di diamante è simile. Una decorazione di questo tipo non è stata rinvenuta in alcun altro affresco, né della medesima scuola, né per mano di altri pittori, quindi è sicuramente un segno che contraddistingue Ambrosius Gander, può essere considerato autografo. Anche i rosoni, visibili nell'affresco della Sacra Parentela sulla parete est della Cappella Coburg, riprendono lo stesso motivo ornamentale che Ambrosius aveva già utilizzato negli affreschi di Termino. Queste decorazioni sono così identiche nei due cicli pittorici da poter essere considerate elementi appunto distintivi e caratterizzanti del pittore. Importanti scoperte sono state fatte anche qui nei tre seguenti ambiti: identificazione dei committenti, e analisi iconografica e stilistica. L'analisi stilistica ha permesso di evidenziare una forte evoluzione nello stile pittorico di Ambrosio Scander. I lineamenti del viso che a Castellazzi caratterizzavano solo le figure femminili ed angeliche vengono estesi a Goudon anche alle figure maschili, senza però inficiare la resa ritrattistica dei personaggi, che risulta al contrario piuttosto felice. La plasticità dei corpi è accentuata da passaggi cromatici e chiaroscurali graduali, che dimostrano una grande abilità nell'utilizzo delle ombreggiature. Negli affreschi della Cappella Coburg il pittore riesce a ricreare architetture e spazi più realistici, in particolare grazie al suo netto avvicinamento all'illusionismo spaziale del Rinascimento veneto, pur rimanendo legato anche al vocabolario pittorico nordico, quindi è proprio una buona commissione delle due. Gander riesce a far convivere nei suoi dipinti elementi rinascimentali, come ad esempio le nicchie contenenti statue in posizioni classicheggianti, che potete vedere qua riprodotte, con dettagli ancora tipicamente tardogotici, quindi non so se si riescono a vedere, ci sono due statue che sono in posizioni classiche, però sono ancora tipicamente gotiche, ancora una buona via di mezzo. Fra le opere che ho potuto attribuire per via stilistica al pittore, vi sono due tondi presenti all'interno dell'ottava arcata del chiostro dell'Abbazia di Novacella, databili negli anni 50 e 60 del 400, fra gli anni 50 e 60. Questa è l'ottava arcata del chiostro di Pressamonio. Se si pone attenzione sulla figura meglio conservata, cioè il re Davide, salta subito all'occhio la notevole somiglianza tra questa e il re raffigurato nell'intradosso dell'arco all'interno della cappella Coburg. Risultano analoghi la resa della barba, le labbra carnose e a forma di cuore, la fronte alta, gli zigomi accentuati dal chiaroscuro, il naso dritto, i grandi occhi marroni e le sopracciglia fine. Le due figure si assomigliano anche nella scelta coloristica e nella foggia dell'abito, così come nel colore della decorazione delle perle della corona, altrimenti di forma differente. Quindi questo mi ha permesso anche di dare un'attribuzione stilistica. Nuove attribuzioni sono anche le chiavi di volta della chiesa parrocchiale di Santa Margherita Novacella, consacrata nel 1452. Le pitture in ottimo stato di conservazione sono attribuibili ad Ambrosio Scander, sia stilisticamente che grazie all'utilizzo in questi affreschi dei medesimi punzoni adoperati nelle pitture dell'ottava arcata del chiostro. A livello stilistico questi affreschi si collocano fra le pitture giovanili di San Giacomo in Castellazzo e l'opera più tarda della Cappella Coburg a Goudon, quindi sono a metà fra le due. Gli affreschi gotici presenti all'interno delle chiavi di volta della chiesa di Santa Margherita sono stati scoperti durante i restauri del 1994, dato che in precedenza risultavano coperti da quattro strati di calce e da dipinti ad olio su cartone. I quattro tondi mostrano San Biagio, San Mattia, la Madonna con il Bambino, che è questa che potete vedere, e Lecce Homo con gli strumenti della Passione. La rappresentazione mariana del terzo tondo rimanda al classico motivo iconografico della Madonna col Bambino, così come amata da Dolce Stile, cioè la bella Madonna, la Scione Madonna. La fronte alta, la pettinatura alla moda, coronata da un velo che cade in morbide pieghe, l'incarnato roseo e i lineamenti della Madonna richiamano alla mente le dolci vergini nell'intradosso dell'arco di Castellazzo. Ho messo le due per darvi un'idea. Le nuove scoperte presenti nel mio studio hanno consentito quindi di dimostrare l'importanza di Ambrosio Scander all'interno del panorama storico-artistico altoatesino, grazie al suo ruolo di anello di congiunzione fra le generazioni di Giovanni, Erasmo e Cristoforo da Brunico e di Michele Friedrichsbacher, quindi è a metà fra i due. La precisa identificazione degli influssi dell'arte nordica, in particolare boema custerese, e del sud, in particolare veneti, nell'opera dell'artista hanno permesso di confermare ulteriormente il particolare ruolo dell'Alto Adige quale zona di collegamento e di fruttuosa commissione fra l'ambito culturale tedesco ed italiano. Con quest'ottica sono state condotte anche le mie ricerche, utilizzando cioè le metodologie e approfondendo gli ambiti di studio tipici sia della storiografia artistica italiana che di quella tedesca, il che ha portato al conseguimento di nuovi ed importanti risultati. La precisa identificazione dei luoghi e degli anni in cui il pittore ha operato può inoltre fungere da base concreta per ulteriori studi che approfondiscano l'ambito della scuola custerese, ma anche per le ricerche iconografiche, soprattutto del Burgraviato, tutta la zona del Milanese. Le particolarità inoltre iconografiche portate alla luce della pubblicazione possono infine rivelarsi di interesse sovraregionale, dato che esse, pur essendo evidentemente delle particolarità caratterizzanti il pittore, delineano in alcuni casi un autonomo sviluppo di alcuni motivi nella zona alpina dell'Alto Adige. Grazie per l'attenzione. Una relazione molto intenso anche di informazioni. Ci sono delle domande da parte del pubblico? Dove anche alla sveglia? Qua. Ho cercato di stare nel tempo. E c'è sempre Franca che mi guarda, mi controlla ogni minuto, ogni secondo che passa, tic toc, tic toc. Però insomma, dai, una domanda, se c'è il pubblico si sente di farla, volentieri. Nessuna domanda, sono rimasti. È una relazione troppo autoctona per voi che non sappiamo nulla. Non siamo all'altezza, no, siamo all'altezza. Siamo all'altezza. Già spiazzato. Io sono rimasto stupito, quindi. Perché conosciuto l'argomento benissimo, sì. Sono tanto ammirare e quello che mi è venuto a me, probabilmente c'è, come spero anche magari che abbia innescato allungate la voglia di andare di persona a vedere e farsi una, sì, piccola. Partiamo da questa osservazione che fa Mattias. Se tu ci dovessi invitare ad andare a vedere questo, cosa ci diresti? Mi sentite un po' meglio? Ma devo dire, è un pittore che a me piace tantissimo, altrimenti non avrei dedicato a questo pittore 6 anni della mia vita. Consiglio di sicuro di vedere la chiesa di San Giacomo in Castellazzo, che è splendida e conservata anche molto bene, sia per le pitture romaniche, che sono forse le più note, sia per le pitture gotiche. E la cappella Coburg bisogna un pochino vedere se si riesce a trovare aperta, perché è la vecchia sacrestia, quindi potrebbe essere chiusa a chiave, però organizzandosi vale la pena di vedere anche questa. E Novacella, il chiostro è sempre aperto, quindi sicuramente quello è accessibile, una bella gita a Novacella, sia per la chiesa barocca che per tutta la parte gotica, vale la pena. Che poi lì c'è la tua scoperta, non l'hai esplicitata tanto, sì. Ma insomma. Sì, appunto, i due tondi nell'ottava arcata e queste 4 opere che ci sono nella chiesa di Santa Margherita, che purtroppo è sempre chiusa a chiave. Quindi anche lì bisogna farsela aprire. Va bene, grazie. Lei ama il futurismo, mi ha detto, tra l'altro, molto. Quindi è proprio eclettica anche in un certo senso. Ma come è nata la sensazione? Fin da bambina mi è sempre piaciuta, ho sempre amato l'arte, con i miei genitori ho viaggiato tantissimo, un po' in tutto il mondo, e quindi fin da piccola proprio, già quando ero alle superiori sapevo che volevo fare storia dell'arte, e è proprio una mia passione. Tutto, sia l'ambito moderno che antico, appunto sono esperta in medievale, però anche l'ambito del futurismo mi piace moltissimo. Grazie. Franca Valenti. però per l'audio, cioè per questo sto parlando, non c'è adesso. C'era adesso. Ah no, grazie. No, ok, perfetto. Allora, posto, lo lascio così, la sfida, ok, prego. Possiamo iniziare? Allora, Franca Valenti, questa mattina con uno psicoterapeuta, con Maiolo, abbiamo parlato di fiaba e di favola e ci ha spiegato anche la differenza tra una fiaba e una favola, nel senso che la favola ha sempre una morale, la fiaba invece no. Leggendo quello che scrive Franca, mi viene da dire che favole non ce ne sono tante, e invece è tutta una fiaba. E anche mi sembra proprio che scriva con lo sguardo di una bambina, cioè lo sguardo pulito, innocente, tranquillo, oppure anche quello di una gatta. Di una gatta che ha alle spalle tanta esperienza, che ne ha viste tante nella vita. Non gli sfugge niente, ma non si scomoda più di tanto. Ma non gli sfugge niente. E quindi ogni cosa che vede, tac, la scrive. E quindi leggendo questi suoi... Io ho letto tutto il suo libro e devo dire che è stato anche bello un po'... Ho pensato subito, ma guarda, anche qui in Alto Adige abbiamo un pochettino di Karen Blixen e un pochettino della Cookie Gallman. Karen Blixen era bellissimo, ricordo il film La mia Africa, in cui lei si trova tra due uomini e chiede a loro, datemi un appiglio e vi racconto subito una favola. In questo caso una fiaba, meglio, e lei la raccontava. E in questo senso Franca mi pare che abbia fatto la stessa cosa, nel senso, viaggiando nel Kenya, che è un territorio da lei amato in tanti sensi, mi pare di capire, ogni volta che vedeva un qualche cosa, tac, gli la ispirava e scriveva. E d'altra parte una Cookie Gallman, però la Cookie Gallman era più residenziale, diciamo. Lei è nomade, lei viaggia, cammina, viaggia in auto, viaggia in aereo, poi per andare in casa, e quindi si sposta, però mi pare che di ritrovare lo stesso amore anche che ha la Cookie Gallman. Kenya, ragazzi, Kenya, veniamo tutti da lì, Quindi il Kenya è sempre una suggestione, anch'io sono stato nel Kenya ed è una suggestione, lì è nata la nostra prima, quella che viene chiamata la nostra bisnonna, no? Lucy, 3,2 milioni di anni fa, e su quella base poi gli antropologi, gli archeologi eccetera hanno stabilito che apparteniamo tutti a una stessa razza. E mi pare che questo messaggio oggi sia più che mai attuale. Apparteniamo tutti all'Homo sapiens e di questo dobbiamo ringraziare appunto Lucy. Di che cosa dobbiamo ringraziare Franca? Che ci riporta un po' di fiaba di questa nostra lontana origine. La parola a te. Grazie. Visto l'alba, un desiderio indicibile di vita mi ha attaccato al sole africano. Posso alzarmi? Sì, se sono meglio. la sua quotidianità è la trasgressione delle cose comuni. So che tornerò perché mi mancherà sempre. Questo è il libro, sono racconti kenyoti, ricordi e suggestioni di viaggio in Kenya, Kurukwe genovese. L'ho dedicato a chi mi ha voluto bene e a chi ho voluto bene. Desidero anche ringraziare il professor e amico Vito Mastrolia, che stasera però non può essere presente. Questa prefazione è di Daniela Di Giusto. Con grande sensibilità emotiva, Franca Valenti ci presenta la sua Africa, che diventa immediatamente la nostra, perché cogliamo un'emozione in più, preziosa per la nostra mente e per il nostro cuore, un tassello di vita vissuta che stimola la nostra sensibilità e che la traghetta verso nuovi traguardi emotivi. E questa è la mia presentazione. Questi racconti sono la continuazione di Jambo Kenya, che avevo scritto nel 2005. Sono ricordi ora lontani, ora vicini. Li stavo narrando al mio amico e gallerista Peter, così lo chiamavo quando l'ho conosciuto. Ma lui mi ha detto: scrivi queste cose. Così ho fatto. Ho descritto un mondo diverso, non europeo, che ha la capacità di creare una certa dipendenza coi suoi tramonti indimenticabili. Può apparire tutto vero e tutto falso, fantastico e reale, insieme. Grazie. Grazie perché hai fatto un corso con il professore. Bravissima, infatti adesso ci saranno alcune letture di Maria Pia Zanetti, che se la dovrà vedere con l'espressività con cui lei ha letto adesso, quindi... No, poi avete notato la camicetta in tema? E c'è bisogno di microfono oppure... No, meglio con il microfono. Ecco, come avete capito, a Franca non piace molto parlare e quindi... Leggiamo qualcosa, questi suoi appunti di viaggio. Questo è il Kenya. Arrivati a Mombasa, il ritmo di vita cambia. Forse il caldo contribuisce a rallentare i movimenti. Sui visi dei locali noti una certa indifferenza, una serenità indolente. Con i nostri volti bianchi e le movenze un po' goffe, potremmo appartenere ad un altro mondo. Dopo diversi controlli, saliamo su un pullman. L'autista tenta di far entrare tutte le nostre valigie nel bagagliaio, correndo sempre più velocemente da destra a sinistra. Alla fine, miracolosamente, riesce a stiparle e a farle stare in equilibrio. Ormai la stanchezza si fa sentire e non vediamo l'ora di arrivare in quell'oasi di fresco di sabbia fine e mare verde di Watamu. L'autobus è talmente carico che ognuno di noi quasi trattiene il fiato sperando di arrivare sano e salvo. I matatu sprecciano ad una velocità indicibile ed ogni volta i viaggiatori salutano e continuano a salutare anche quando il nostro automezzo si ferma irrimediabilmente. Il conduttore scende e si mette a correre ad una velocità incredibile, sta recuperando la parte perduta. Si attacca con disperazione al telefono e farfuglia qualcosa. Non riusciamo a capire cosa stia accadendo. Dopo diverso tempo intuiamo che un meccanico è partito da Mombasa per aggiustare il pezzo. Beh, la logica per noi è sconvolgente. Il tecnico arriva dopo un'ora con qualche attrezzo, ma l'operazione non riesce. Il caldo è torrido, mi salva un cappellino di paglia. Intanto dal bosco, quasi per miracolo, spuntano dei bimbi, poi una donna anziana e una giovanissima mamma. Ci guardano con curiosità e chiedono qualcosa. Un bimbo domanda la mella. Arriviamo in hotel con un mezzo di fortuna e ci accolgono con l'aperitivo pronto, senza proferir parola. Come belve scatenate narriamo l'accaduto, di cui loro sono già al corrente. E il direttore risponde laconicamente: questo è il Kenya. Nel Kenya ne succedono di tutti i colori, in effetti. Uno che viaggia in Kenya sicuramente si porta dietro una serie di episodi, volere o volare se li porta a casa comunque. E in effetti è quello che ha riportato anche, quello che ha riportato anche Franca nel suo libro. Ed ora una nota naturalistica. Le alghe e le stelle marine. Al mattino vi è lo strano lavoro della raccolta delle alghe. In quattro boys ne fanno delle pile, ora delle strisce. Prima le radunano, poi le portano a una decina di metri. Lavorano alacremente, sembrano burattini. Non si capisce che cosa in effetti desiderino fare. Pare che le alghe essiccate siano un ottimo fertilizzante. Il governo non vuole che siano portate via. Tutto ciò accade quando c'è la bassa marea. I locali dicono che è un momento emozionante. Se si è fortunati, si può assistere al matrimonio tra il polipo e la stella marina. Attraversando il mare, a tratti, sulla spiaggia, si cammina tra alghe che vanno dal marrone scuro a quello chiaro. Talora sono verdi, anche rosse. Queste sono quelle amate in Oriente. Il Kenya è considerato la culla dell'umanità, grazie agli scavi effettuati anche vicino al lago Turkana, dove sono stati trovati dei teschi di ominidi, uno dei quali risalirebbe a più di 2,5 milioni di anni fa. Altri recenti scavi hanno evidenziato ossa appartenenti ad un ominide vissuto 6 milioni di anni fa, tanto da far pensare che possa trattarsi del più antico antenato dell'uomo. Due parole meritano le stelle marine. Sono abituate alle basse maree e fuori dall'acqua vivono 5 ore. Alcune sono piccole e si vedono i loro tentacoli che si muovono tra i sassi. Divenute adulte, sono di una bellezza incomparabile. E infatti sono intarsiate di colori brillanti come il rosso corallo e talora il verde alga. Sono il grande vanto dei kenyoti. ci sono anche le dolenti note, vero Franca? Omar. Assieme alla mia amica avevamo promesso ad Omar di portare qualcosa ai suoi genitori che abitavano nell'entroterra un po' in collina. Acquistiamo fagioli, farina di mais, un po' d'acqua, olio e sapone. Andiamo anche per vedere la nuova costruzione. Era infatti la famiglia più povera del villaggio. Possedevano in pratica solo un tetto di macuti sorretto da 4 bastoni. All'interno c'era una maca e poi delle specie di tappeti per i loro figli. Raggiungiamo la madre a pochi centinaia di metri. Sta rompendo i sassi per farne altri di piccole dimensioni che useranno per le costruzioni. Ha una maglietta bianca piena di buchi, più dell'altra volta. Ma la maglia ora è di un altro colore. Notiamo che al padre mancano ancora più denti. Sta coltivando del mais. La figlia più piccola ha una ciotola con dentro un pastone bianco che mangia con le mani. Dopo le piogge, la vegetazione è robusta, l'erba verde e fresca. Riconosciamo i suoi fratelli. Uno assomiglia ad Omar, poi c'è la sorella. Gli altri ci guardano con aria di felicità. È arrivato il cibo. Grazie, grazie Maria Pia. Lei nobilita tutto quello che scriviamo. Volevo anche far vedere qualche maschera, perché sono inserite nel libro. Alla sì. fine ci sono delle maschere, questi sì. sono gli originali, però non li ho ancora incorniciate. Sì. Vorrebbe far vedere alcune maschere che lei ha disegnato. Vorrei far vedere alcune maschere che ho disegnato e che sono alla fine del libro. Sono state disegnate appositamente per questo libro. Una volta c'era la lavagna luminosa, e adesso non c'è più, ma potresti avvicinarti al pubblico anche a farlo vedere. Sì. Perché sono molto particolari. Perché ovviamente Franca, oltre a scrivere, dipinge, disegna. Una persona piena di doti. La suggestione degli scrittori l'hanno costretta a fare la ragioniera. Sì. Ma lei, più fa la ragioniera, più di notte si sfoga a trovare altre espressività. Ma i conti tornano. Va bene. Se ci sono anche domande da parte del pubblico. Bene, abbiamo un pubblico che assorbe e si bea di quello che assorbe. Grazie allora Franca e buona continuazione. Grazie. In tutte le tue doti. Attivato il video che Mattias ci ha portato, ne approfitto per ricordarvi ricordarvi che questo autore tornerà il 13 di dicembre in questa sala alle ore 18 per presentare il suo libro. Confermi Mattia, quale libro ci presenterà il 13 di dicembre? Sì, allora, funziona. 13 dicembre, sempre qui al Trevi, grazie alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, presenterò in anteprima il mio nuovo thriller, un noir ambientato a Bolzano, Quel che resta del peccato è il titolo. Ci sarà Paolo Cresi Carnevale, uno dei primi comunque ambientato storia noir, diciamo, qua a Bolzano, che mi presenterà. Ci sarà Maria Pia Zanetti, che avete appena ascoltato a leggere parti del libro, mi sembra bene. E poi ci sarò io per un firmacopie, e ci sarà in anteprima anche il book trailer, che abbiamo girato in vostra. Ecco, vi aspetto. Ecco, allora vi ricordo di nuovo che sarà sulla serata del 13 di dicembre alle ore 18 presso la sala del centro di Firenze. E poi vi anticipo anche che il 17 di dicembre festeggeremo il premio Claudio Augusta, quindi tutti i ragazzi e le ragazze che sono laureati quest'anno hanno presentato una tesi che riguarda in qualche modo l'Alto Adige, una disciplina indagata a un aggancio col nostro territorio. Quindi il 17 dicembre alle ore 18 faremo una breve presentazione e premiazione di queste tesi per il 2018. E infine, visto che l'ultimo ospite questa sera sarà il professor Giorgio Dobrilla, che è qui in sala con noi, vi ricordo che anche il suo libro, Il processo ai medici numero 2, Il processo alla medicina numero 2, ecco, verrà presentato il giorno 20 dicembre alle ore 18 presso questa sala. Quindi chiudiamo con il professor Dobrilla l'attività del 2018 e siete tutti chiaramente calorosamente invitati. Grazie. Il trailer funziona? No, non parlavo. Adesso si vede lo strillo per il secco. No, sì, ok. Ti presenti la copertina? La copertina o... No, tu cosa ti serve al computer? Questa era la domanda. Faccio soltanto vedere il trailer. Il trailer? Sì, sì, prima inizio io. Sì. Ok. Bene, allora, benvenuto. Grazie. Mattias Graziani. Quando ho letto di Mattias Graziani e ho letto anche l'abstract che mi è stato consegnato, mi è venuto in mente il titolo del film Un tranquillo weekend di paura, che è uno simbolo, no? Un tranquillo weekend di paura. Perché, insomma, tu mi hai detto che hai una o due bambine? Due bambine. Questo ragazzo è un padre di famiglia con due bambine e che scrive un libro di questo libro si dice Miami 1995. Sotto il sole della Florida viene fatto un ritrovamento quanto mai terribile e grottesco. Una marionetta umana penzola da un palo in un groviglio di carne morta e filo spinato. Ciò che il tenente Roy Ackerman intuisce è che qualcuno sta giocando a fare Dio. Ma quello che scoprirà invece è che i resti umani provengono tutti da vittime differenti. Allora, leggendo questa cosa e pensando al ragazzo, padre di famiglia, tranquillo con due bambine, mi viene da chiedere, leggendo questa cosa qua, sono attratto a scoprire che cosa dice il romanzo o sono portato a chiederti, ma chi te lo fa fare a scrivere queste cose? Prego. Ok, beh, diciamo che l'immaginazione arriva ovunque. Io sono partito dal fantasy, tra l'altro mi fa piacere perché ho visto lì La stirpe del vento e La pietra lucente, che erano i primissimi, insomma, è una trilogia fantasy. Il fantasy è stata la mia prima passione, quindi con quella sono partito e lì ho affrontato gli orchi. Forse poi crescendo ho deciso di affrontare un altro tipo di male, ben più reale purtroppo, e siccome penso che uno scrittore si voglia liberare da quello che ha dentro, quindi che sia un'emozione, che sia quello che immagina, lo fa perché lo vuole, secondo me, donare a qualcuno, vuole emozionare qualcuno o spaventare qualcuno o impressionare qualcuno. C'è anche una componente sadica dietro tutto questo, però è una liberazione, quindi poi sono di natura una persona che preferisco andare sotto pelle, nel senso preferisco andare in profondità alle cose, e quindi mi sono proprio buttato a capofitto e è il mio primo thriller d'esordio come genere. Mm-hmm. E allora ho voluto affrontare forse qualcosa che spaventa anche me. È un romanzo agghiacciante e indimenticabile, un finale assolutamente imprevedibile. Andrea Pinkett, non so se mi spiego, insomma. Poi. Sì, mi ha fatto piacere perché al Salone del Libro di Torino, 2 anni fa circa, Andrea Pinkett, che è uno dei maestri del noir italiano, è passato per caso, ha visto la copertina, ha voluto leggerlo, gli ho lasciato i miei contatti e mi ha chiamato 2 giorni dopo all'1:30 di notte. Io mi sono svegliato, guardo il telefono, neanche con il suo numero rispondo. Immaginava che scrivessi di notte, insomma. Sì, ma beh, lui è un personaggio particolare, quindi immagino che insomma. E mi ha risposto con questa voce che cioè, ti presento subito, mi ha detto ti presento in un suo locale a Milano, e quindi sono stato a Milano e mi ha presentato come autore, e mi ha fatto molto piacere perché insomma non mi doveva assolutamente nulla, e poi è di un calibro altissimo, quindi complimenti. Ecco, grazie. Mm-hmm. Vi faccio soltanto vedere brevemente, dura pochissimo, 30 secondi, un book trailer, giusto un assaggio, così tanto per entrare in atmosfera. Mm-hmm. Ok, ora non va più. Prima andava. Preparatevi, eh? No, non c'è niente. Un po' di più. C'è niente? No. Non troppo buio perché. No, ma non è solo. Peggio sarà quello del 13 dicembre. Ah. Questo non lo dovevi dire. Insomma, sottopelle non è soltanto una metafora, è qualcosa anche di materiale. Sì, sì. Mm-hmm. Tra l'altro qui dietro leggo in quarta, la casa editrice ha scelto di mettere questa frase, che è un personaggio a dirla a un certo punto del libro, quindi è un dialogo, no? È qualcosa che dice un personaggio. Si è ripreso, sì, ma ogni tanto ripenso ancora al suo sguardo. Fissa il vuoto, come se non vedesse le cose. Ci vede, non è cieco, ma non osserva nulla. È come se fosse morto sotto pelle, non so se semi. Se la porterà dietro per tutta la vita, e a giudicare dal sangue, chissà quanti ne sono morti laggiù. Quindi, sotto pelle, da una parte perché spero di essere andato sotto pelle, ma anche per un altro motivo che poi ovviamente si scoprirà leggendo. Credo che comunque ognuno di noi a un certo punto della propria vita, magari da giovani, abbiamo visto oppure letto qualcosa che ci ha colpito particolarmente nel profondo, una sorta di imprinting, no? E da lì c'è questa atmosfera o questa tipologia di storia che anche da adulti ci può ancora piacere. E io avevo 13 anni, 14, quando andai al cinema a vedere Seven, quel thriller con Brad Pitt e Morgan Freeman e Kevin Spacey, tra l'altro, e mi ha colpito tantissimo quel film nel profondo. E quindi, passando dal fantasy al thriller, credo nel mio di aver voluto un po' restare in questa atmosfera. Ma perché dici che ti ha colpito nel profondo? Cos'è che ti ha colpito di quel film? Intanto perché è stato probabilmente uno dei primi di quel tipo che io avevo visto a quei tempi, perché andavo a vedere altro genere. Perché era anche un po' costruito, no? Cioè, non era un film violento di per sé, era un film di una violenza anche sottile, di una violenza materiale ma anche psicologica, e poi era un po' quasi alla Agatha Christie, cioè un po' costruito anche dal punto di vista mentale. Sì. Ed è quello che a me anche piace molto. Infatti con questo thriller mi sono complicato la vita, perché ho deciso di ambientare una parte della storia a New York, una parte a Miami. In entrambe le location ci sono protagonisti diversi, ma anche in periodi diversi, perché anche gli anni sono differenti. In mezzo, per dividere queste due parti di storia, c'è un'altra storia, sempre intitolata Serenity, che è una ragazza. Non si sa dove collocare questa persona, in che periodo, e poi c'è la parte finale dove i due protagonisti si incontrano. Quindi è un romanzo anche complesso dal punto di vista di struttura. È stato il mio primo approccio al thriller, quindi mi sono complicato tantissimo la vita. Infatti quello nuovo di cui abbiamo parlato prima è impostato più semplice, no? È ambientato qua a Bolzano, ma comunque ha un'impostazione un po' più lineare, diciamo. Però sono sempre stato molto affascinato anche da queste storie, dove assolutamente la cattiveria e la crudeltà non è gratuita e quindi non viene buttata lì così, ma cerca di evidenziare da una parte purtroppo il male che esiste al mondo, ma d'altra parte il bene che riuscirà poi a sconfiggerlo, perché se io non creo il male in un certo modo, il cattivo fa la storia. Lo stesso Carisi, la ragazza della nebbia, lo dice: è il cattivo a fare la storia. E quindi se io non creo un cattivo di spessore, un cattivo che sia effettivamente crudele, il buono che cercherà di combattere il buono, poi che questo libro di buoni, insomma, sono persone normalissime, però queste persone non avrà tanto valore il riuscire a sconfiggere questo male. Quindi più il male è grande e più poi la vittoria della giustizia sarà grande, insomma. Mm-hmm. Prima si parlava di fiaba e di favola, la favola che è sempre una morale, quindi in un certo senso i tuoi scritti contengono anche una morale finale. Allora è come pensare a tanti thriller di questo tipo o film, un'unica morale non c'è, ci sono più messaggi. Non è una favola, quindi non voglio parlare di morale, ma ogni personaggio, quindi abbiamo due, e sono due personaggi particolari, perché io arrivavo dal fantasy dove c'erano gli eroi senza macchia. Volevo creare dei personaggi che invece fossero molto reali, avessero proprio i loro problemi, i loro vizi, e quindi si ritrova in loro tanti tanti messaggi diretti un po' a tutti, poi anche del mio vissuto, quello che comunque uno porta come bagaglio culturale. Quindi ci sono tanti messaggi, ecco, tanti messaggi, non solo una morale unica. Leggo un messaggio. Sì, certo. Leggo il prologo. Perché ci interessa anche il modo di scrivere. Sì. Bevo solo un sorso. prima. È che c'è una parolaccia nella prima frase. Ma non è mica tua, Serve perché dà la forza, è una di quelle parolacce che servono. Sì. Anche perché, raccolto brevemente questa retroscena, si sente parlare spesso l'incipit, cioè la parte iniziale, deve essere importante, deve essere accattivante, deve colpire. Io ho detto, io adesso colpisco, cioè, scrivo qualcosa e colpisco. Sto morendo, cazzo. Questa è una parolaccia? No, vabbè. Caro. La ferita è profonda e il sangue scorre sull'asfalto. Se qualcuno non mi soccorre in tempo, ci resto secco. Conosco certe ferite. Non credevo potessi avere dei rimpianti. Ho sempre voluto tutto, troppo. Bisogna stare attenti, prima o poi il male ti trova. Alla fine si riduce tutto a questo, il momento del trapasso. Crepare sapendo di aver vissuto bene o crepare sapendo di aver vissuto male. Non ci sono vie di mezzo. Non ci sono patteggi o compromessi. La morte arriva ed è fredda, dura e spietata. Non ci sono speranze, non c'è nemmeno un fottutissimo appiglio a cui tenersi. Forse la fede aiuta, ma non ho mai avuto fede in nulla. Ora me ne rendo conto. Ricordo i discorsi che facevo su Dio, sull'universo, sulla morte, sul cristianesimo, sul buddismo, sull'Islam. Il problema è che facciamo finta di avere fede. Recitiamo, perché lo fanno tutti, perché ci fa sentire meglio, ma questo non aiuta, non ora. Ho sempre avuto la presunzione di essere migliore di altri. Credevo di poter cambiare le cose. Predicavo molto bene, ma razzolavo malissimo. Ero bravo a mentire, a recitare la mia parte, perché la vita non è altro che un palcoscenico. Ho tradito, ho ucciso, ho rubato. Ho ceduto così tante volte alla tentazione che nemmeno lo Spirito Santo riuscirebbe ad assolvere i miei peccati. La reputazione è tutto, è quello che resterà nella memoria delle persone e io ero bravo a recitare. Mi chiamo Adam Stanter e sto per crepare. L'unica cosa che posso fare è ripensare alla mia vita, cercare di rimettere insieme i pezzi. Complimenti. Bello stile di scrittura, molto crudo, asciutto, sì. Crudo ma anche asciutto. È l'incipit questo, quindi, no? È proprio il prologo, sì. Quindi, sì, esatto. È invitante. Sì, ho cambiato anche completamente stile di scrittura e il fantasy ovviamente richiedeva altro, quindi è uno stile ovviamente, un respiro narrativo di un certo tipo, parole di un certo tipo, e quindi mi sono ritrovato ad adattare lo stile poi al genere. Questo è sotto pelle, vuoi leggere qualche altro, perché vedo che ci sei messo un altro. Sì, allora lo scantinato era marcio. Anna e Marie stava seduta lì da ore, ma le sembravano giorni. Doveva fare ordine, doveva pulire per terra. Sì, doveva assolutamente pulire per terra. C'era troppo sporco in giro. Quante volte le aveva detto sua madre di essere più ordinata e di spolverare bene anche la credenza? Era la credenza e tutte le sue bambole di ceramica a puzzare. Quelle dannate bambole. Le teneva lì da troppo tempo. Ora vedeva tutto con un'ottica diversa e l'aveva capito guardando le bambole, quelle facce bianche e morte, con gli occhi sbarrati che la fissavano sempre. Si portò una mano tra i capelli, grattandosi. Doveva lavarsi. Sua madre le aveva sempre detto che doveva fare la doccia una volta al giorno. La mamma aveva ragione, la mamma aveva sempre ragione. Anche quando mi diceva di fare i compiti, anche quando mi diceva di non giocare con Christine, anche quando mi ha sorpresa mentre guardavo la TV di notte. Nella stanza accanto c'era Samir. Il suo nome era arabo e significava compagno di chiacchierate notturne. E lo era per Anna Marie, lo era come. L'uomo stava scrivendo su una busta. Destinatario, Laura Gonzalez. Samir si alzò e raggiunse Anna Marie. si avvicinò a lei lentamente, non voleva spaventarla. «Ancora intenzionata a mettere a posto le bambole?» le chiese. Lei annuì, si fidava di Samir. Aveva imparato col tempo a volergli bene. «Spostati, ti faccio uscire». La chiave di ferro entrò nel lucchetto e un rumore metallico assordante riecheggiò contro le pareti ammuffite. Samir l'afferrò per un braccio. Anne-Marie non pesava molto, non più. La sua testa sbatté contro le sbarre che delimitavano il suo spazio vitale, la sua gabbia, la sua stanza nella quale viveva da mesi. La testa di Anne-Marie si piegò in avanti, non mangiava da giorni. Il suo sguardo spento si bloccò sulle bambole di fronte a lei. Quegli occhi spenti, quei volti pallidi non erano finti, cadaveri, ammassati come pupazzi di legno difettosi. Rileggendo certi passaggi poi dopo tanto tempo, mi impressiona anch'io. Devo dire, sono quei passaggi dove mi dico. Però ho visto che leggi anche con molto coinvolgimento, e quindi mi sembra di dedurre che anche l'hai scritto con come dire, rivivendo, comunque immaginando sempre intensamente il momento. Assolutamente, se non è una cosa che dico spesso anche insegno scrittura creativa nelle scuole, è una cosa che dico anche sempre ai ragazzi, se non è l'autore il primo ad emozionarsi, il lettore non potrà mai emozionarsi a sua volta, quindi è importantissimo riuscire a immedesimarsi, e uno scrittore lo deve fare per qualsiasi personaggio, quindi che sia la vittima, che sia il cattivo, che sia il protagonista, che sia anche soltanto un personaggio marginale. Ma se c'è ancora tempo leggo ancora Notti Oscure. Ah sì, giusto, questo appunto è Sottopelle, c'è anche Notti Oscure. Ma più che altro lo volevo semplicemente presentare perché io sono in parte autore, è un'antologia di racconti, thriller, siamo in 9, mi sembra 10, tanti autori, anche assolutamente più famosi di me, sono contento di farne parte, c'è un mio racconto anche qui, thriller. Ma il bello di questa antologia è che una parte viene devoluta in beneficenza per le zone terremotate, con Isle of Norcia, c'è anche il logo e all'interno ci sono i dati, e quindi leggere o scrivere, ma in questo caso leggere e fare anche beneficenza è bello, e quindi è uscito un annetto fa, e quindi mi faceva semplicemente piacere dire che esisteva Notti Oscure, volendo anche per Natale o comunque se si vuole fare beneficenza oltre che leggere. È una bella cosa. Ci sono domande da parte del pubblico? Io la faccio bella vicina. Cosa ti ha lasciato Sottopelle? Nel senso, tu hai detto che hai due bambine, ti ha messo più angoscia o sei riuscito a esorcizzare le paure che ti portavi dentro verso il futuro? Fatta lei la domanda. Mi hai messo allora non è facile, eh. Allora sicuramente mi ha liberato in parte, quando l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo che non ero ancora papà, ho finito di scriverlo che ero papà. Ci sono stati dei momenti dove proprio perché ho scelto di andare in profondità agli argomenti, dove mi sono anche informato con dei casi successi realmente, dove dovevo proprio fermare la scrittura perché mi sentivo male, perché comunque uno scrittore è sensibile agli argomenti, non può che non essere così, quindi però appunto sono andato avanti perché volevo che questo male venisse sconfitto almeno qui, e mi sono liberato sicuramente, diciamo che è una liberazione momentanea, perché poi dopo è chiaro che i timori e le paure, poi soprattutto insomma essendo papà, tornano, ci possono essere, però sicuramente mi ha liberato di magari un accumulo di timori per questo argomento, per questi argomenti, che mi ha aiutato sicuramente a incanalarle. Ma questa vena ti è nata leggendo altri thriller, altri noir, altri gialli, oppure guardando più film? Ah, entrambe le cose. Entrambe le cose. Io ho iniziato a leggere fumetti da piccolo, supereroi probabilmente. Topolino di certo, ovviamente. No. Eravamo no. Cioè, no. No. Topolino no. No, leggevo tanti supereroi. Okay. Poi sono passato ai romanzi fantasy, Tolkien, tanti altri. E prima col thriller mi sono avvicinato con i film. Cosa sì, Seven o Soliti Sospetti o altri, e poi dopo ovviamente però mi sono poi avvicinato anche alla lettura assolutamente di thriller, tant'è che appunto ho scritto questo thriller poi ambientato a Bolzano, perché spesso mi hanno chiesto perché non hai ambientato il tuo primo thriller esordio a Bolzano, non, nemmeno io in realtà avevo la risposta. Quando ero a Milano, che c'era questo, appunto, che Andrea Pinchetti mi ha presentato, dal pubblico qualcuno me l'ha chiesto, non sapevo bene rispondere, ed è stato lui a darmi una risposta. Mi ha detto: ma non è che forse hai ambientato questa storia lontana da te perché ti faceva paura per un momento? Mm-hmm. Che è una bella analisi, può essere che nel mio subconscio io abbia voluto ambientarla lontano, non a Bolzano. Però appunto dopo questo esordio qui ho voluto ambientare un thriller che però, questo lo dico, è meno cupo di questo, essendoci una parte un po' pulp come stile, a me piace tanto Quentin Tarantino come regista e altri, Joe Lansdale come scrittore, e quindi c'è una vena pulp in questo romanzo ambientato a Bolzano, sempre thriller, però strappa anche qualche risata, quindi è un attimo più meno noir e cupo come questo. Mm-hmm. Bene, altre domande da parte del pubblico? Quando scrive condivide questi racconti un po' con la moglie e magari le sue critiche o magari lei ha paura di sentire questi racconti? No, allora all'inizio, quando appunto avevo iniziato a scrivere fantasy, le prime volte che scrivevo, sì, avevo una paura, non avevo ancora la moglie, avevo paura del giudizio, perché comunque, però ho sempre sottoposto i miei scritti, questo sì. Oggigiorno mia moglie, che legge tantissimo, è una delle prime che legge, così come anche un mio migliore amico che è seduto lì, fa finta di niente, ma, Alessio, e mi criticano, io lo do a loro perché so che mi criticano, e quindi così riesco anche a migliorare il libro. Assolutamente, ormai sono arrivato a una, tu dici giovane, sono alla soglia, cioè, faccio 40, sì, e tu, grazie, però ne ho 40, così giovane. Però in ogni caso quello che conta per me è la differenza. E quindi assolutamente ho imparato a accettare le critiche, e quindi se soprattutto il lettore, chi legge, ha anche solo un piccolissimo dubbio, probabilmente ha ragione. Perché se... Ma tu stai parlando di dubbi nella trama, sì, dubbi nello stile di scrittura, soprattutto nella trama. Qualsiasi cosa, se in quella frase, nella trama, nell'espressione di quella determinata atmosfera, il lettore, chiunque sia, dica, certo, dice, non lo so, ma non ho capito bene, ma tu intendevi questa cosa? Io dico sì. Ah no, allora ok, no, non è ok. Perché così come c'è lui, ci possono essere tantissimi altri che come lui pensano in quel modo, e quindi lì l'autore deve intervenire e migliorare, assolutamente. Però deve anche mantenere una sua originalità, sì, no? Senza dover scendere a compromessi di questo tipo, assolutamente, sì, sì, sì, sì. Va bene, se non ci sono altre domande... Ah, la moglie è terribile, comunque, per dire, cioè mi proprio... No, come si documenta poi per le cose che hanno riguardo come degli ispettori o della polizia? Per fortuna c'è Google. Senza, non so, difficile, no, c'è un bagaglio culturale mio, quindi essere interessato, leggendo soprattutto grandi anche autori, c'è un mio sapere. Poi dopo mi documento assolutamente, ma ho fatto, devo dire, tanto online con questo, anche gli archivi, si può accedere veramente a tutto, agli archivi a Miami, New York, di casi accaduti da leggersi, così come anche italiani, In questo caso mi interessavano quelli americani perché per sottopelle stiamo parlando di questo, e mi sono documentato così. È anche interessante una cosa, io vi invito, chi vorrà leggere, ci sono delle copie lì, in caso se qualcuno volesse comprare, Miami e New York, io sono stato solo in uno di questi posti, e mi piace sentire da persone che alcune non notano la differenza. Questo da una parte è triste, uno dice io vado in un posto e poi alla fine potrei anche non esserci andato, mentre nell'altro lo conosco il luogo per aver letto, per aver visto in televisione, ma andavo su Google Maps, tristissima come cosa, Google Earth, per vedere le strade. Vedevo le strade con Google Earth, riuscivo ad andare avanti, vedevo la zona e riuscivo anche a descriverla meglio. Quindi diciamo che forse non serve, ma insomma, non sono il primo a dirlo, c'è tanta gente che attraversa delle strade quotidiane e non si rende neanche conto di quello che c'è. Quello che conta è veramente cercare di scoprire anche le cose normali di tutti i giorni con occhi diversi, come si dice, no? E quindi va bene, allora grazie Mattia. Ciao. Come si dice? Come la balena? Devo rispondere? Sì. Speriamo non scorreggi. ok, io tutto. Thank you. grandi, io ormai ero tutti grazie, seduti lì. Valentini, perché sono capace di fare la salute. Medicina insolita per il medice. Grazie. Non riesco a aprire questa penna però. Grazie. Grazie a lei. Cerchiamo sempre di essere all'altezza della nostra situazione. È tutto difficile. Non guardo proprio la cosa facile. Farò qualche sorpresa. Scorpione, si identifica nel segno? Lei si identifica nel segno del scorpione? Mi identifico, ma siccome ritengo delle puttanate non. Sì, ma. Sì, potrebbe anche essere. Potrebbe, io sono della rete. Conosco. Lei traveste oggi. Mi sono trasformato. Lei sempre uguale, invece sempre al top provocato. Va bene, possiamo riprendere. Allora concludiamo con il dottor professor Giorgio Dobrilla. Scusate un attimo, il pubblico mi può scusare un attimo? Io ultimamente ho dei problemi. Me l'ha già detto ieri, mi sono preparato. Niente di importante. È un classico, chissà quante volte succede al medico, eh? No, lasciamo da parte i miei dolorini, invece entriamo un po' nel merito questo che mi viene da dire veramente che è un fantastico medico trattino scrittore. Anche perché averlo da noi in Alto Adige è veramente una grande fortuna. Perché una grande fortuna? Ma innanzitutto perché in un mondo di fake news, come si dice oggi, cioè di tante bugie, di tante fanfaronate, e soprattutto proprio nell'ambito della salute e della medicina, il professor Dobrilla è uno che smonta in ogni suo articolo, smonta tante fake news. E siccome sono anche pochi oggi nel giornalismo a smontare le fake news, diciamo che almeno noi abbiamo un punto di riferimento abbastanza sicuro. Grazie quindi, professor Dobrilla. E poi dobbiamo anche ringraziarlo perché lui scrive molto. Tra l'altro io una volta ho fatto una visita da lui e mentre io parlavo lui mi faceva le domande e scriveva. Non gli articoli, scriveva quello che diceva. Però adesso mi chiedo, ma forse scriveva già degli articoli, forse lo ispiravo. Ma lui scrive sempre, continuamente, e quindi ci regala una consulenza gratuita. Ogni settimana ci regala una consulenza gratuita e tra l'altro lo fa in un modo veramente giornalistico, con cui io mi sono già complimentato a suo tempo quando sono venuto da lei, perché lui usa anche un suo stile proprio giornalistico, nel senso che non è il medico che entra subito a parlare della questione in modo serioso, prende sempre uno spunto. Oggi ha preso lo spunto da Beppe Grillo, so se mi spiego, insomma, non è che è lì subito a parlare di medicina. E poi anche quando secondo lui si tratta di fake news o di fanfaronate, eccetera, alla fine è un laico, come dire, no? Nel senso che lui dice sempre sarà, a me non mi convince, comunque sarà, quindi è sempre un po' aperto, lascia che tanta gente, e proprio anche l'ultimo articolo, no, di oggi sulla biodinamica, in cui si parla di preparati insoliti come il corno letame, che sarebbe sotterrare vesciche di cervo con dentro fiori di achillea, o un corno di vacca ripieno di letame, o far fermentare la corteccia di quercia nel teschio di un animale domestico. Proprio. E vabbè. No, mi lasci dire una cosa? Sì? Che questa cosa è grave, perché c'è un convegno che si terrà fra due o tre giorni al Politecnico di Milano, che è uno dei più prestigiosi istituti scientifici europei, proprio sulla agricoltura biodinamica. Allora c'è stata una sollevazione di tutte le autorità scientifiche italiane, perché il fatto di ospitare in un'istituzione scientifica, no, non si può mettere alla pari il mago Telma con un premio Nobel, e dà una patente di minimo di attendibilità a delle cose oscene. La terza ragione per cui secondo me dobbiamo ringraziare il professor Dobrilla è che anche lui si libera da certi tabù. Avessi letto prima un certo suo articolo, questo è un suo articolo del data prostata e sesso, croce delizia, la data non la vedo, ma la data è del 2008, e cosa vede qua? Due buchi. Sì. Quindi è un articolo che ho conservato, come vede, dal 2008, come vede la seguo da tanto tempo, e poi la prostata, e dove in un certo momento dice, parlo di tabù liberati, i soggetti con più intensa attività sessuale vanno incontro a un rischio sensibilmente minore di cancro prostatico. L'ho fatto leggere a mia moglie, vedi? E da lì è cominciata tutta un'altra stagione. Avessi potuto leggerlo tanti anni prima, dove qua c'è scritto l'autoerotismo da riprovevole causa di malanni fisici, perfino di cecità, e lo sappiamo che ce lo dicevano, che diventavamo ciechi, eccetera, eccetera. Avessi letto prima, probabilmente avrei forse avuto un'attività sessuale un po' più felice. Posso sempre recuperare. E vai, prego, dottor Dobrilla. Va bene, allora io mi alzo, che non sono capace di parlare seduto. Ringrazio intanto che Chierigato, sempre acuto, arguto e divertente, e ringrazio voi che siete qua. Volevo dirvi che non vi preoccupate, non vi annoierò con robe di medicina, che sono quelle che stanno a sinistra, la mia attività è completamente diversa, sono libri, parlo di libri non professionali, fatte di bufole, come diceva Criato, cronache, sociosanitarie, progressi medici, eccetera, e dal 2002 al 2018 questi sono i volumi, i 21 volumi. C'è un'edizione croata su invito di frati della capitale della Croazia, che erano innamorati del mio libro sulle alternative e mi hanno fatto parlare in inglese, con traduzione simultanea in croato, perché erano innamorati di questo problema. E l'ultimo è quello che vedete adesso. Sempre che non si sia scaricato la pila, eccolo. Questo è, avete già visto questo titolo nel 2016, già presentato qui al Trevi, e lo ripresenterò al Trevi, come vi accennava la dottoressa Trevisan, il giorno 20, ed è un libro di 230 pagine, quindi voi capite che in 15-20 minuti non posso raccontarvi, non posso leggervi, vi posso dare degli stralci per dirvi la natura di questo libro qua. che è sempre medicina insolita, perché spesso è trattata poco dai medici e non è trattata affatto dai media, televisione cartacea. E vi faccio vedere due righe della prefazione di Gerardo D'Amico, che è quello che conduce Basta la Salute per Rai News 24, e di Dante Ricciardi, che è l'autorevolissimo presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, non tanto per enfatizzare l'importanza di queste persone che mi fanno la prefazione, ma perché hanno colto il punto centrale. Dice D'Amico: dobbiamo essere grati, per questo sequel, perché questo è il numero 2 appunto rispetto a quello del 16, un libro che è anche un vademecum pure per distinguere la verità giudiziaria da quella scientifica. Guai se i medici e i magistrati cominciano a fare i medici, e guai sarebbe se i medici facessero i magistrati. Fa bene Dobrilla a denunciare la superficialità dei giornalisti che esaltano pseudoscoperte eccetera. Giornalista pubblicista lo sono anch'io, grazie al padre del direttore dell'Antologia, Faustini padre, che circa 40 anni fa mi ha invitato a scrivere per il giornale che lui dirigeva a Trento, poi è stato segretario nazionale della stampa e sono diventato da allora pubblicista regolare. L'indice generale è questo, corposo, vedete, per cui non posso che soffermarmi brevissimamente: medicina e società, aspetti che hanno del sociale ma che hanno anche una quota medica, delle malattie strane che potrebbero creare molta angoscia o non crearne affatto se il medico spiegasse meglio. Sappiamo tutti, io compreso, quando mi rivolgo a specialisti diversi, quando se la spiegazione è insufficiente diventa motivo di ansia. Basta una spiegazione qualche volta per ridurre le cose. Ma ci sono poi malattie anche strane, difficilmente spiegabili e difficilmente curabili, ma il malato ne deve essere consapevole. Curiosità più che giustificate, come vedrete, c'entra anche il sesso, così accontento anche Grigato. Notizie che male non fanno, sapere è sempre meglio che non sapere. Farmaci pure e la medicina, l'ultimo capitolo corposo, la medicina irrazionale e gli antivaccini. Cosa tratto soprattutto nel primo capitolo? Vi dico solo gli spunti, ovviamente non posso fermarmi. Uno è l'assenteismo e i falsi invalidi. Ne sentiamo sempre parlare. Se sono falsi invalidi vuol dire che qualche medico ha fatto un certificato falso. Oppure se sono i furbi del cartellino, c'è un dirigente che non ha controllato cosa facevano. Vi domando se avete mai letto una notizia sui giornali che è stato condannato un medico che ha fatto un certificato falso o un funzionario che non ha controllato i dirigenti. Nessuno. Un applauso. Non l'avete sicuramente. Un'altra cosa che viene trattata in questo capitolo è degli esami inutili, che sono una vera malattia, perché se all'individuo non viene spiegato il perché di un esame, continua a farli senza motivo di angoscia. Oltretutto c'è una responsabilità pesante di molti colleghi, non c'è dubbio, abbiamo dei colleghi fantastici, compresi i medici di base, perché sono costretti ad un'attività senza aiuto se non burocratico. Ma però d'altra parte facciamo delle cose, ci fanno fare e controlliamo delle cose. Una volta si faceva emocromo, glicemia e esame delle urine standard 20 anni fa. Adesso l'esame standard ha 20 voci, quindi aumentiamo il rischio che c'è il famoso asterisco che è stato costruito per avvertire il medico di stare attento, che è diventato invece motivo di ansia per l'addetto non professionale. Quindi su questo mi soffermo, tanto per dirvene una: il TSH con la seconda transaminasi non hanno nessun senso senza una motivazione clinica. Se uno mi dicesse: ma facendo la transaminasi con l'ottamina insufficiente e anche quella chirurgica ottengo un risultato importante, bene fare. Ma siccome non cambia assolutamente niente, non c'è nessuna migliorata informazione delle due, eccetera. E poi un capitolo che mi piace molto, perché io ho una grandissima stima del sesso femminile, della discriminazione nell'ambito medico, nell'ambito della ricerca, nell'ambito delle istituzioni, che una donna arrivi in fase apicale. Ha 1000 difficoltà in più del maschio e ancora oggi in medicina è pagata in generale, in qualche regione più pesantemente che qua, 20% in meno del collega maschile. Trovo che sia una roba, avendo dei plus, sono riconosciuti di meno. Questo tanto per ricordarvi che ha fatto specie, questo in mutande che tira, sembra anche che qualcosa emerga dalle mutande sul davanti, ma questo non lo so, se sono mutande poco elastiche, però questa non ha avuto conseguenze, questa è ancora lì. Malattie strane. Malattie strane vengono trattate poco, a meno che non siano fonte di scoop. Perché i giornali, in fin dei conti, tutti i giornali, compresi i grandi nazionali, cercano più lo scoop che l'informazione. Se voi Salvini che si lancia con la morosa occupa più spazio di premi Nobel in medicina di cui non si ricorda più nessuno dopo una settimana. Però ci sono, sicuramente in sala qualcuno c'è, abbiamo un amico, io Frangipane, qui presente, un amico caro che ne soffre, e anzi io ne ho un altro che Frangipane non conosce, che ne soffre, le gambe, la sindrome delle gambe senza riposo, la sindrome della fatica cronica, che erroneamente viene tacciata spesso di essere oziosi, la cilia, uno che non ha voglia di far niente, ed è una malattia la fatica cronica complessa, la polimegia automatica, ma uno in particolare che vi faccio vedere, ad esempio, è la sindrome delle unghie gialle. Questa ve la faccio vedere nel mazzo, ho scelto questo fiore, perché essendo giallo, chissà perché pensiamo tutti immediatamente al fegato. Di tutte le interpretazioni non soddisfacenti di questa sindrome rara, l'unico organo che non c'entra proprio per niente è il fegato. Okay? Curiosità giustificate. Una, questa l'ho concordata con chi rigato ovviamente. Attività sessuale dopo l'infarto. Ora, la vita media aumenta, si moriva a 60 anni. Facciamo la protesi dell'anca a 95 anni e la facciamo ancora, interveniamo sul cuore dopo gli 80, quindi anche l'attività sessuale in modalità e in intensità un po' diversa viene ancora sviluppata, attuata da persone che un tempo andavano a giocare alle bocce. Quindi ha una dimensione giusta, perché fa parte della nostra vita, solo gli imbecilli non hanno una vita sessuale fantasiosa, che è massima durante l'adolescenza, la vecchia, ma dopo continua ad avere un suo peso nell'ambito di un rapporto che è più completo. Bene, uno che si fa, quindi ci sono anche gli infartuati di 40 anni, di 35, 40, giocatore di calcio che casca per terra con l'infarto a 21 anni, nonostante tutte le visite che fa, e va dal medico che lo salva, gli fa la protesi, lancia il palloncino dopo si prova a un certo punto gli dice guarda di evitare gli sforzi acuti, ma in generale il curante non gli dice nulla sul sesso e sia l'infattuata e soprattutto la donna infattuata ha pudore nel chiedere dei particolari su questo aspetto, perché è un aspetto pruriginoso. Sigarette elettroniche, sì no, le trasfusioni, meglio il sangue fresco o no? Sono tutte curiosette robe che non hanno un impatto giornaliero, ma chi deve essere trasfuso qualche domanda se la pone. Ma restando il primo tema che è più interessante è questo, voi vedete che ho messo volentieri di proposito una coppia non più giovanissima e qui l'esempio, il simbolo della donna e il simbolo dell'uomo è un po' di tracciato elettrocardiografico. I medici che spontaneamente dicono qualcosa o che dicono qualcosa su sollecitazione del paziente dicono delle frasette ridicole. Medici di solo avari di consigli e senza competenza, perché poi non basta lavorarsi in medicina per sapere cosa deve fare un infartuato da un punto di vista sessuale, nessuno lo insegna all'università. Pazienti non chiedono, come dicevo, viene detto la può fare ma con moderazione, però non dicono cosa vuol dire ma con moderazione. Lo può fare ma evitando certe modalità, ma non dicono quali modalità. E via dicendo. Notizie che male non fanno. Questa è una notizia incredibile, chi vorrà leggere il libro troverà che una percentuale notevolissima di calo di rischio tumorale c'è in chi si muove. Cioè il movimento sappiamo tutti che fa bene, il movimento, mangiare verdura, non fumare, eccetera, ma il movimento specificamente come rischio tumorale è di un valore enorme. con calo di 20-30% per alcuni tumori. L'unico che non ne beneficia è il cancro della prostata. Bene, lì c'è, trovate tutti i dettagli, ve lo nomino prima. Ma una cosa di cui vi farò vedere un'immagine breve è questa, che, di cui sentirete sempre più parlare in futuro, che ha guadagnato pochissima pubblicità sui media, che è la biopsia liquida. Ora noi siamo in grado di biopsiare tutto, soprattutto con l'avvento delle tecniche di immagine, e quando dico tecniche di immagine alludo alla TAC, all'ecografia o anche alla risonanza, meglio brevemente. Noi siamo in grado di biopsiare tutti gli organi, dal cuore al cervello. Possiamo pensare al testicolo, andando dentro quei tubi o anche dati fuori dalla cute, tutto si può biopsiare, però ci sono organi che si biopsiano con una notevole difficoltà. Voi pensate a una biopsia mirata del pancreas, dobbiamo passare un organo, una vescica che tiene dentro due litri di roba come lo stomaco, che maschera la situazione del pancreas che sta dietro lo stomaco e si appoggia direttamente alla colonna vertebrale. Voi avete un'ombra di 2 centimetri che potrebbe essere un cancro del pancreas, mortalità a 5 anni del 95-99%, e quindi è importante raccogliere, e allora è importante fare la biopsia. Ma non è semplice fare la biopsia, passare la cute, passare lo stomaco senza perforarlo, andare indietro, trovare una... insomma, è il problema. Quindi la possibilità di fare la biopsia liquida, di cui non avete mai sentito parlare, ed è già in atto ed è già sperimentata in animali e in qualche uomo, ma siamo agli albori, ma questa è la strada. Cos'è la biopsia liquida? La biopsia che si fa prelevando un banale prelievo di sangue o anche grattando un po', come si fa per il DNA, in bocca con un qualche cosa. In questo materiale liquido, che impedisce e evita che la persona si appunta in organi difficili o in organi facili, facile fare una biopsia del viso, ma difficile fare una biopsia del pancreas. E sono dentro, cosa si cerca? Si cerca adesso con un sistema di arricchimento su cui non mi soffermo, ma nel libro qualche traccia la trovate, troviamo o cellule tumorali singole, arricchite con certi sistemi, in mezzo ai globuli rossi e globuli bianchi, troviamo cellule tumorali vere. Cellule che hanno delle caratteristiche vere. Tenete conto che da un punto di vista formale sono molto simili, tant'è vero che la difficoltà di un farmaco antitumorale è che sono talmente simili nella forma e nel metabolismo che quando trovate un farmaco molto efficace, è efficace sulle cellule tumorali ma vi rovina anche quelle sane. Quindi il grande problema della terapia antitumorale è quello di riuscire a discriminare queste due cose. Ma non basta, si trova anche dei frammenti di DNA tumorale che sono sufficienti a fare diagnosi di cancro. Non è una cosa ipotetica lontana, è già in atto, non è ancora messa in atto in maniera standardizzata in tutti i laboratori, ma questa è la strada sicuramente. Ci basterà poche robe, una grattatina sul palato, per fare una biopsia che altrimenti sarebbe difficile. Capitolo penultimo, farmaci cure. Posso dire, siccome è stata usata una parola pesante prima, che però non è pesante, perché la dicono anche in televisione, e allora posso dire le puttanate che si dicono sugli integratori, così il mio collega è in buona compagnia e si sente meno in colpa, sono affrontate in maniera oggettiva. Tenete conto che farmaci di sicura attività e di sicura efficacia e di basso rischio in totale sono 600. I farmaci in commercio sono 15.000. Fatto un po', dico. Rischio intermedio e poi ogni tanto le mode. Il riso rosso fermentato si va alle mode. Quando ero piccolo mia madre mi diceva ti do la pastina glutinata che ti fa bene. Poi è venuto che bisogna che il glutine sia assente da tutte le parti. Poi c'è l'olio di palma. Poi c'è fa boom di interesse per un mese, due mesi, un anno, intanto c'è qualcuno che mette dei soldi dentro nella cassaforte e poi si scopre che sono tutte delle cose di prima. Riso rosso fermentato, eccolo qua. Dentro nel riso rosso fermentato, che dovrebbe essere buono perché il naturale è buono, ci dimentichiamo che naturali sono anche noi uomini che facciamo morire in un'ora 25 bambini di fame. Quindi il naturale è tutto meno che sinonimo di buono. E dentro questa roba qua, che non è altro che ha l'effetto delle statine, compreso gli effetti collaterali delle statine, che sono dei farmaci estremamente importanti quando occorre, solo quando occorre e alle dosi giuste. Spesso non sono usati quando non occorre e a dosi e tempi sbagliati. Comunque sia, sto risorso fermentato è un altro farmaco che costa molto di più del farmaco. E poi, mentre una pastiglia di statina, se occorre, la potete prendere la sera prima di dormire, mangiare ogni giorno l'isolosso fermentato per approfittarsi sarebbe un po' noioso, almeno secondo i miei gusti. E arriviamo alle medicine razionali e Novax. Si trova dentro un po' di tutto. Nel mio libro ormai esaurito, le alternative trattate tutte in maniera dettagliata, qui non potevo fare ripetermi se non mi annoio, ma qualche spunto per drammi recenti ci sono stati. Per esempio si propone la medicina tibetana che diventi patrimonio dell'UNESCO e c'è un litigio tra India e Cina per far diventare un elemento di tutela dall'UNESCO della medicina tibetana. Omeopatia eccetera, e poi abbiamo il problema grosso con cui chiudo una diapositiva è la questione dei vaccini. Questo è mio padre, che si chiamava Giorgio come me, l'ultimo anno nel 1935 che il fascismo consentiva che padre e figlio avessero lo stesso nome. Da quel momento lì non era più possibile. Magari lo si chiamava, ma di contrabbando. Ecco, e io allora gli chiedevo: papà, quando è che devo credere alle cose? E mio padre, che era un bellissimo uomo, buonissimo uomo, grandissimo atleta, diceva: quando ti dimostrano che sono vere. Questo mi ha influenzato fortissimamente nel prosieguo, perché mi viene spontaneo ogni volta che penso una cosa anch'io di domandarmi: ma la penso su che base? Sto avendo un'opinione motivata o no? E questo mi ha influenzato in generale. Nel caso dei pazienti ovviamente questo mi interessa di più, perché uno si può sbagliare, e sicuramente io ho sbagliato, ma non si può sbagliare in malafede o per ignoranza, perché il compito principale è quello di far del bene se uno ha scelto questa professione, anche senza che tutti diventiamo Auschwitz, perché non è possibile, le eccezionalità sono sempre state così perché sono eccezionali. Bene, questa è l'ultima. Sui vaccini vi dico soltanto questo. Questo è l'universo del numero totale dei vaccini nel mondo. Questi sono dati assodati, vi assicuro. In rosso sono il totale delle segnalazioni di sospetta reazione avversa, cioè di un qualche cosa che è capitato dopo un vaccino e che si sospetta possa essere correlata. È una macchiolina piccola rispetto a un pianeta solare. E quanto è questo sospetto? Dello 0,05% di tutto. Ma se andiamo a vedere poi il totale delle reazioni avverse realmente correlate al vaccino, di quelle sospette, queste sono lo 0,0015% di tutti i vaccinati. Allora, uno o non crede a questo, e non crede a me che vi faccio vedere questo, e si informa, e ha tutto il diritto di informarsi. Ma deve informarsi, non vuol dire: ma secondo me io odio quelli, ma se ci sarà anche vero, ma secondo me è un tubo. Le reazioni avverse realmente correlate al vaccino sono una piccolissima parte del sospetto, le reazioni avverse a loro volta sono una piccola parte del numero di vaccinati. E nessuna protesta che il costo dei vaccini sia meno della metà del fatturato della Boron per prodotti omeopatici. Questo non sconvolge nessuno, di spendere, di buttare via per delle truffe fatte in buona fede o fatte spesso in malafede. Dalla postfazione di Walter Ricciardi, che ripeto, ribadisco, non per l'autorevolezza del personaggio, ma perché secondo me se legge il libro e ha colto alcune cose fondamentali, dice: con questo libro io, cosa che fa da anni, da un altro contributo alla lotta contro la disinformazione in medicina. Fa piacere, siccome lui lotta per questo ed è l'unico italiano nel board internazionale sulla salute, è una persona molto autorevole e impegnata, e quindi è la politica dell'Istituto Superiore è questa. Fa piacere che alla policy dell'Istituto Superiore di Sanità concorra uno studioso come il sottoscritto, che con questo suo libro si unisce efficacemente alla nostra battaglia per la buona pratica medica. Quindi, ripeto, non per far vedere, per farmi bravo che lui l'ha detto, ma perché lui, avendo letto il libro, ha colto esattamente uno dei miei principi ispiratori. Nelle librerie, dopo la prima decade di dicembre, per varie ragioni, la mia editora ha ritardato, questo è, se uno vuole, tanto per ricordarsi il titolo, c'è qualche copia lì, e la prima presentazione in extenso del libro avverrà. È un'abitudine, una tradizione a cui io tengo molto, perché voglio molto bene a questa biblioteca, che è una fucina di cultura, e lo direi anche se la Valeria fosse un uomo brutto. Va bene? E quindi quando presento un libro, la primizia ce l'ha il centro Trevi. Sarà, la presenterò il 20 dicembre alle ore 18 e tutto quello che non ho detto in quel poco che vi ho detto oggi lo troverete quel giorno a cui siete tutti invitati. Non ci ha smentito rispetto a quello che abbiamo detto fin dall'inizio, sempre più incuriosito, sempre una enciclopedia, ma non di quelle noiose, ma sempre di quelle stimolanti, sempre quelle con dentro cose curiose e nello stesso tempo anche scientifiche, assolutamente utili, direi indispensabili, insomma. Non so se aprire il dibattito. Esattamente, mi fate paura se apro il dibattito, non lo so. Intanto il sesso femminile non fa domande sulla prostata perché se ne frega. Ah, ecco. Però potrei raccontare un aneddoto sulla prostata. Da quando ho 45 anni vado sempre dall'urologo, sì. E ho sentito dire tante puttanate, posso dirlo anch'io. Sì, sì, certo. E una di queste proprio, poi mi piace. Sono sempre un po' uno che metto anche un po' in discussione i medici. E quindi, ma va bene, va benissimo. E dico, ma voi ogni volta dite che se uno è operato di prostata perde la virilità. Mm-hmm. Sì. No, dico, la virilità è un'altra cosa. Perde l'erezione naturale, sì. Eventualmente, sì. Che non coincide con la virilità. La virilità è tutt'altra cosa. Ma insomma, vuole mettere anche fare sesso, ma guardi, dico che si può fare sesso in mille modi, giuro. Sta dicendo, ah sì, mi ha detto il medico, ah sì, gli ho spiegato i vari modi in cui si può fare l'amore. Sì, vabbè, ma se voi pensate che uno si laurea in medicina e con la laurea, l'ho detto più volte, so di ripetermi anche in questa sala, lo dico in triestino perché le piace a Frangipane, le piace che quando dico, se un semona, cioè se si laurea in medicina resta quel che era. Cosa volete che un ragazzo che non ha avuto una sua vita, un suo sentimento, poi anche lì c'è una variabilità enorme, è come negli insetti, ci sono delle categorie di insetti che sono a cui il sesso non esiste, le formiche operaie no, poi c'è la madre, il maschio, l'ape regina aspetta il fuco che vada a fecondarla, poi muore, e anche nei maschi ci sono delle femmine, ci sono delle gente con una sessualità molto modesta. Ci sono delle gente invece che, soprattutto per prostate cancerogene riconosciute precocemente, per la familiarità comporta un esame più precoce, e uno a 40-45 anni deve sapere che se fa un certo tipo di intervento lui l'erezione non ce l'avrà più, oppure fa delle pompette strane che alcuni nostri politici usano regolarmente, senza far nomi. Va bene? Allora, è vero anche che ci sono degli interventi non demolitivi di asportazione totale della prostata che risparmiano i nervi erigendi e che consentirebbero, perché poi sono robe che in un centimetro, queste fibre nervose sono difficilissime, eccetera, però hanno un effetto certamente meno drammatico. Poi ci sono delle terapie ormonali che azzerano completamente anche la libido, perché è inutile avere se uno non ha libido non risente neanche molto di avere un'insufficienza erettile, ma se uno allora se ha anche una terapia antilibido uno se ne frega. Ma questo è grave soprattutto per tornare al punto centrale che ha detto lei, soprattutto per i soggetti giovani che gli viene proposta una asportazione completa di prostata e che non gli si dice che conseguenze ha. Un tempo addietro, 30-40 anni fa, c'era un famoso intervento detto di Smithwick, un chirurgo che per l'arteriopatia obliterante che veniva attribuita in maniera acritica ai fumatori, con tutti quelli che gente fuma dovevano avere tutti zoppicanti, si erano inventati che questo i fumatori sviluppavano l'arterite di Bürger, si chiamava, e che facendo un'asportazione dello splanchnico addominale si risolveva questo spasmo che c'era proprio, che comportava claudicazio. Bene, non risolveva la claudicazio, ma dava al soggetto di solito giovane fumatore 18-20 anni l'impossibilità assolutamente di un'erezione. Quindi quando si tratta di un intervento che attiene a qualche problema psicologico particolare, per alcuni molto importante, per alcuni no, a seconda dell'età, dell'educazione, eccetera, e bisogna almeno sapere a cosa si va incontro. Quello che ha detto lei però mi pare molto ragionevole, l'attività sessuale, anche di questo c'è sto pudore, non si parla mai, vediamo sesso strapazzato, mutande che girano, non si parla. L'amore non è solo, l'amore non è solo penetrazione. Amore è tante cose, tant'è vero che esiste anche amore di tipo omosessuale in cui la penetrazione non c'è. Poi si va sempre alla ricerca della pornografia, degli aggeggi, sex toys, quello sono tutti un'altra cosa. Ma si può amare profondamente una persona e avere anche un'attività sessuale soddisfacente per l'età, perché è chiaro che a 70-80 anni non possiamo essere Rocco Siffredi a 20. Quindi ha fatto bene a dirlo, perché non si parla mai di queste cose, e in fin dei conti è un po' il formaggio sui maccheroni, il sale su una roba insipida. È una componente sessuale, fa parte di un buon rapporto coniugale, e spesso i rapporti coniugali vanno a remengo perché questo aspetto non viene completamente trascurato, per educazione, per l'intervento di inibizioni religiose, eccetera eccetera. Quindi ha fatto benissimo a sottolineare. Grazie. Vogliamo far fare una domanda a una donna, tanto per non concludere con la prostata? Non ho capito bene. L'attività motoria, diciamo, favorisce il tumore o non? Ah sì, questa no, anche un po'. L'attività motoria riduce sensibilmente, come unico fattore considerato, poi ci sono miliardi di fattori, la familiarità, uno fuma, uno è grasso, uno è magro. L'attività motoria regolare comporta una riduzione, mi sono stato strabiliato da vedere queste cifre che ho verificato in più parti, ma che va dal 20-25%. Naturalmente, come sapete, rischio non è patologia. Il rischio tumorale non significa avere un tumore, rischio è una roba, però siamo sulla strada di, è meglio non averlo sto rischio. Ora, l'attività fisica riduce sensibilmente, al di là del prevedibile, la incidenza del tumore, quindi non solo di rischio, anche di incidenza. Fa eccezione, e non so dirvi perché, non era spiegato e credo che nessuno so, la prostata no. La prostata risente pochissimo, anzi peggiora qualcosetta sul... Non so se perché tutti quelli che si muovono vanno in bicicletta con la sella dura e la sella dura preme... Non riguarda le donne, noi siamo... No, non riguarda le donne. Il movimento possiamo fare. Ma voi sicuramente sì. Poi non mi chieda se una transessuale lo può fare, questo non lo so, non c'è fatto. Comunque lei può fare tranquillamente il movimento e ci guadagna da tutti, ma guardate, tutti i tumori, dal tumore del polmone, il tumore del pancreas, il tumore del fegato, è incredibile. Ora, questa non è una notizia da dare en passant, magari troverete l'altro ieri, parlando dei giornali, parlando del Corriere, parlando del Repubblica, parlando già. Hanno questo, devono accettare la pubblicità. Ora, in un mondo, se no andiamo a finire a Carlo Marx o come Dio ha costruito il mondo, se hanno pubblicità vivono, se non hanno pubblicità ci penso con lo Stato, quindi si accetta, vabbè. E noi possiamo anche accettare che una pubblicità decente ci sia, ma è fondamentale che il clivaggio tra la parte del giornale e la parte pubblicitaria sia netto. Se voi guardate il Corriere Repubblica, un errore l'ha commesso anche Alto Adige l'altro ieri e l'ho segnalato in maniera delicata al direttore, e i caratteri di scrittura sono uguali, le dimensioni delle lettere sono uguali, in piccolissimo c'è scritto pubblicità Manzonio, addirittura l'ultimo articolo sull'Alto Adige che privilegiava una bieca promozione di qualcuno, c'era scritto RP talmente piccolo che quando l'ho letto mi sono indignato e non mi ero accorto neanche che c'era. Poi dico, mi pare impossibile che non ci sia una segnalazione di questo. Sono andato a prendere la lente, perché senza gli occhiali comincia a essere orbo, e ho trovato questo RP. E questo è una roba gravissima, per cui tra la persuasione occulta, tra le cose, e poi ricordate, vi è andato via, se volete ricordarvi una roba che deve colpire, deve far pensare a quelli che pensano, la gran parte non pensa, se no non avremo nel mondo la situazione che abbiamo, no? Siamo diretti in tutto il mondo da una percentuale di votanti che al massimo raggiunge il 50%, del 50% sono divise in tre parti, il 50% non sa neanche cosa, l'analfabetismo di ritorno è spaventoso, statistiche accuratissime, c'è molta gente che sa leggere ma non capisce quello che legge. Se vi ricordate, nel primo libro, la Valeria forse se lo ricorderà, hanno fatto un calcolo di quante persone sanno interpretare i bugiardini. Bene, un sacco di persone no, ma il 25% dei laureati non sa intendere correttamente cosa c'è scritto sul bugiardino. Non solo, vanno gli occhiali giusti per poter leggere. Oltretutto sempre più piccoli, oltretutto con caratteri sempre più piccoli. Ma poi voi capite, a uno che legge al massimo i titoli della Gazzetta dello Sport sentire effetti collaterali, da 1 a 1000, da 1 a 100, un linguaggio esoterico. Tanto è vero che mi sono imposto, perché istintivamente all'università, poi in congressi ho girato il mondo, si parlava spesso inglese, quindi mi sono imposto di usare il meno possibile. Non mi sentirete mai usare endorsement, non mi sentirete mai usare, ma cos'è sta roba? Il summit o summit, giustamente un esperto di lingue che a Rai 1 è una delle poche robe che guardo, è un vecchio professorone che corregge la rete, ma perché occorre dire summit? Vertice, vuol dire vertice? Diciamo vertice. Anche questo concorre, questo linguaggio un po' esoterico, colpa degli specialisti di vari campi, ma io la legge, ma voi sapete interpretare, qui c'è Alberto Pasquali che magari proprio per la incapacità di leggere le leggi è diventato ricco com'è, perché la gente non capisce. Ricco d'animo. Io non capisco quando c'è la norma, la deroga, non capisco cosa vuol dire. E immaginatevi uno che fa il traviere, uno che fa persone rispettabilissime, mia madre non avrebbe capito, mia madre era appena aveva fatto, sapeva leggere e scrivere, non avrebbe capito una parola di un editoriale, e quindi questo è grave. Va bene, direi che chiudiamo qui e do la parola per la conclusione di tutta la manifestazione a Franca Alberto, non so se stanno litigando. Come al solito. Intanto comunque vorrei ringraziare ancora con un applauso il professor Dobrilla, patrimonio dell'Alto Adige di Reggio. Unesco, patrimonio dell'Unesco ormai. Questo. Sì, no, a nome dell'associazione chiudiamo allora questa terza edizione della settimana dello scrittore, che è stata appunto ideata 3 anni fa dal direttivo, no? E la prima edizione è stata la Cibo Cittadino, l'anno scorso la bella cornice sul Cibo del Castelfreccio, quest'anno siamo stati ospitati dalla provincia di Bolzano, in particolare dalla biblioteca Claudio Augusta. Ringrazio chiaramente tutti gli autori intervenuti, tutti i moderatori intervenuti, un particolare grazie a Italo Belpiatto, che mi ha sorpreso, perché lo conoscevo come autore, come docente, ma non come moderatore. Li utilizzeremo a disposizione. Ecco, hai una carriera davanti, e naturalmente un saluto. Qui a destra c'è il professor Vito Mastrolia, che oggi purtroppo non è qui con noi, e io sono sempre in mezzo ai due. Grazie signori, sono contento di questa terza edizione del nostro premio, che abbiamo organizzato ormai 3 anni fa. Adesso l'anno prossimo andremo avanti e spero che avrà sempre maggior successo. Grazie a tutti. Grazie.